tatuata bella, al lavoro non ci va. Ha messo la camicia, ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita, a consumar le dita, per gli altri non ci sta. Padrone mostra il muso, vediamo come sei. Padrone mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. E se lavori tu, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorar, non vengo, starò con a far l'amore. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. Voglio girare il mondo, che il mondo è in testa, oh. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna, e altro io non ho. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. Come ogni lunedì torna in onda Fuoco alle polveri per tutti e tutte, con il suo usuale ritardo, con il nostro ritardo. Ma ci siamo. È così. Meglio tardi. Meglio tardi che lavorare. Che lavorare. 94esima puntata di Fuoco alle polveri su Radio Wombat. Ultima puntata prima del grande evento dell'anno. Eh sì, infatti è un po' introduttiva al grande evento dell'anno per Firenze, Toscana, non lo so. Allora, in corsa perché sì, non ti sentiamo però. Corsa, non mi sentite? Hai un cavo bisolacco. È vero, abbiamo un po' preso la rincorsa. La settimana scorsa già abbiamo anticipato, ho letto un po' il programma, parlato un minimo del, sapete di cosa stiamo parlando, il Festival di Letteratura Sociale, che è arrivata alla quarta edizione, sta diventando grande e come dice il manifesto sta imparando a... camminare, non ero preparato a parlare inglese, e a mandare a fanculo lo zio. Lo zio. Perché mandare a fanculo lo Guarda, zio? Ma non l'ho scritto io. Quando incontrerò gli organizzatori gli farò presente questa cosa. Ok, questa segniamo, c'è una domanda da fare ai nostri compagni. Ma dov'è compagni che è scritto? Organizzatori. È sul manifesto. Oh. Vabbè, che trovate tutti all'indirizzo www.lapolvera.blogspot.org. Cercate il Festival di Letteratura Sociale, cioè, Firenze, il programma completo. Va bene, da poi, giovedì. Poi basta. Che si fa? No, oggi. Oggi che si fa? Oggi vabbè, si parlerà. Abbiamo tutto un po' a tema letteratura, quindi avremo una rubrica di cinema legata alla letteratura. Qualche lettura di poesie dovrebbero arrivare. C'è anche qualche aggiornamento dalla situazione non. No, anzi, ora Felice in polveriera, che ha subito degli attacchi, possiamo dire, delle aggressioni, ha dovuto difendersi contro dei fascinorosi che rovinavano la serenità e l'ambiente tutto elogiato era diventato invivibile, poi ne abbiamo parlato. Insomma, sì. Vi è tuttora un presidio permanente nel chiostro di Santa Polonia, che fa, cioè, è riuscito a tenere il loggiato sgombro, sì, dai comportamenti, infatti, antisociali. Poi, aspetta solo voi adesso il loggiato, potremmo dire, no? Cioè, venite qui, potete, sì, potete ricominciare a studiare qua, a fare attività e... Sono stati messi i tavolini fuori, le sedie, quindi è molto piacevole sia per studiare che per fare una pausa dallo studio. Un sacco di attività, ieri c'è stata una capoeira, c'è stato la milonga, una garufa, ci dovevano essere anche degli skater, ma poi... Non sono tornati. Non sono arrivati. Senti, ma abbiamo una nuova gemellina, una nuova radio gemella? Sì, è notizia freschissimissima. Verissimo, sì, chi, sul 1359 AM a Bologna, Radio Spore. Radio Spore? Sì, bello. Radio Spora. Spore, che non è mi già, ricordo. È già... Radio Spore o Radio Spore? Ora controllo. Già, il regime va avanti. Sì, già sta trasmettendo. E c'è già il palinsesto disponibile, c'è un sito che è appunto radiospore.odio, vedi, non mi ricordo. Oziosi, bravo, punto okay. Oziosi. Ed è là, si aggiunge già alle altre radio sorelle. Si aggiunge alle radio sorelle, Radio Wombat è stata un po' la prima, la capostipite, poi... Diciamocelo. Dai, diciamolo, possiamo dire. Non mi pare. Grandi pacche sulle spalle. Dai. Blackout, poi... No, sulle AM. No, sulle AM. Noi abbiamo dai, riaperto il... Vabbè, allora Genova, Napoli, già iscritte al... Bologna, Firenze, quindi già si comincia ad essere un bel gruppettino. Forse sarà il caso di incontrarle tutte le altre, di vederci, di pensare un po', di darci le e forse ne avremo occasione, diciamo, perché l'altro grande evento che aspettiamo a gloria dopo il Festival di Letteratura è l'Hack Meeting, che quest'anno si svolge proprio a Firenze, al CSA Next Emerson. Quindi sarà occasione per incontrare tutti gli hackerosi e tecnicosi di anche tutta Italia. Noi veniamo un po' fuori da lì, dal 30 al 2 maggio, al 2 giugno, dal 30 maggio al 2 giugno. Sì, no. Che fra l'altro all'Emerson, non so se lo sapete tutti, ma è stata inaugurata una mostra molto molto bella legata anche all'Hack Meeting, che rimarrà aperta per tutto l'Hack Meeting, che si chiama Bean Art, che è stata inaugurata ieri. È molto bella, è una mostra a tutti gli effetti, cioè non sfigurerebbe assolutamente, anzi farebbe bella figura in una qualsiasi galleria d'arte del mondo. Molto ben fatta, con tutte aggeggi funzionanti che ti portano. Quella che è stata allestita al Tango? Nuovi. Sì, sopra la palazzina del Tango. Sì, nella ludoteca. Va bene, andiamo con Pezzaccio. Andiamo con Pezzaccio. E poi subito dopo il Pezzaccio, se non mi sbaglio, abbiamo un collegamento con un ospite del festival, che è niente proprio di meno che lo Sgargabonzi. Bravo. Va bene, andiamo. Il Pezzaccio lo dedichiamo a Radio Spore, Pirati. Dai, via. Attenti al movimento del lago di una bussola che indica la retta via. oceano alternativo, pronti per sferrare un attacco interattivo, pronti all'abbordaggio per saccheggiare tutto, virati all'arrembaggio, forza e coraggio. Pirati all'arrembaggio, fuoco alle polveri. E a proposito di pirati, come abbiamo detto prima, stiamo per metterci in contatto con uno degli ospiti, con l'ospite di questa quarta edizione del Festival di Letteratura, ovvero Alessandro Gori, lo Sgargabonzi, autore aretino, autore del blog satirico appunto lo Sgargabonzi, che è dell'omonima pagina su Facebook, attraverso la quale lancia i suoi status, che dovete leggere per non potrei descriverveli io senza fare una misera figura. Di tutto, ma continuiamo a non sentirti. Va per conto suo, il microfono non funziona. Autore del autore comico, autore di 4 libri e stand-up comedian, comico da palcoscenico, che abbiamo visto spesso qua a Firenze al volume, non solo. Fu ospite anche della prima edizione del festival, quando ci fu il revival del rave letterario Torino Una Sega, se vi ricordate. E io sto parlando perché voi dovreste nel frattempo fare il collegamento, amici. Ah, ok. È già collegato, basta premere il bottone. Premere via. Premo il via e telefono. Via. Vai. Via. E Sgargabonzi, che sarà ospite la serata di sabato alle 21:30, sabato 18. Non sento squillare, eccolo. Pronto? Alessandro, mi senti? Sentiamo dei rumori. Sentiamo dei rumori, ma non sentiamo lui. No, io... Okay. Pronto, Alessandro? Pronto, mi senti? Oh, adesso ti sentiamo. Tu ci senti? Ah, io sì. Grandissimo, sì, scusa, perdona, i nostri mezzi sono un po' abborracciati, ma insomma si fa con quel che ci sa. Sì, sì. Ciao, benvenuto. Ma siamo già in onda? Siamo in diretta, sì. Ah, ecco, ok. Sorpresa! No, sì, siamo in diretta, stavo giusto dicendo, appunto ti stavo introducendo, tu sei l'autore del blog satirico Lo Sgargabonzi, e, sì. Scrivi sull'omonima pagina Facebook, sei autore di numerosi, di 4 libri, dico bene? Sì, sì, esatto, sì. E sei un animatore da palcoscenico, sei un comico da stand-up comedy, ormai di fama, di grandissima fama, possiamo dire. Cioè, diciamo incoronato ed è un stand-up comedian, per dire, comprovato da mille prove sul palco. Io sono uno, tipo, un'autogestione, leggo da un foglio, faccio dei reading con la dermatite, è una cosa molto più pietosa della stand-up comedy, quindi è come dire, non confondiamo le due cose. Beh, in realtà le cose sono molto confondibili. Comunque, non sei, diciamo, quel tipo di comico che punta alle risate di pancia, alla risata facile e rasserenante. Ma guarda, io ti dico, io non è neanche che punto troppo alla risata. Per me questa dicotomia, cioè questa equazione binomiale, anzi, fra proprio, come dire, la comicità e la risata, a me non è che mi ha mai fatto impazzire. Cioè, per me la risata non l'ho mai intesa come per dire l'unico fine, spesso non è neanche il mezzo, per dire. E per me, come dire, la comicità è qualcosa di, come la intendo io, astratto, filoso e personale e malmostoso, che ti perché vedete a chi parla, insomma, ecco. Infatti io seguo molto il tuo blog, la tua pagina, i tuoi status, non sono ben lungi dal far ridere. Puoi raccontarci te un po', perché rischierai di dire delle cavolate. Vabbè, è una cosa... Ti dico, in realtà alla pagina mia io ci tengo zero, cioè veramente è una cosa che infatti mi spiace essere conosciuto più per la pagina che per altro. A me piace soprattutto scrivere pezzi lunghi, a me piace scrivere i libri in realtà, e fare le serate. Poi io ai tempi in cui uscì il mio primo libro, per farmi un po' di pubblicità per questo libro, io feci la pagina Brodolini? Facebook. Parli di Gunter Brodolini? Di Gunter Brodolini, sì. E creai questa pagina Facebook per far confluire tutti quelli che mi seguivano sul blog, così io postavo la notizia dell'uscita del libro e arrivava un po' a tutti, per dire, così come le varie presentazioni dei libri, eccetera, eccetera. Poi, visto che ce l'avevo lì, lo usavo per scrivere qualche status, ma come facevo prima nel mio profilo privato. Status un po' divertenti, un po' cose fantasiose, eccetera, eccetera, ma così, come un foglietto da scarabocchiare mentre uno ha il telefono, che è la cosa che faccio tuttora, quindi non c'è nessun vero investimento emotivo nella pagina Facebook, che è la cosa che mi interessa meno in realtà delle cose che faccio. E, mentre invece i pezzi lunghi ti riferisci, ad esempio, ai libri. Abbiamo il tuo libro Jocelyn uccide ancora, esatto, che è una raccolta di pezzi lunghi. Sì, è un almanacco eterogeneo e cangiante, che non è uno stoccaggio di scritti, come dire, messi insieme acriticamente, ma ha una struttura secondo me molto musicale, perché ogni pezzo richiama quello successivo, perché ci sono 10 interludi sì, e 50 racconti, e niente, è un libro che mi rappresenta molto, di cui sono molto contento, e che a quanto so sta anche andando bene, insomma, come vendite, anche perché ecco, c'ho un editore come la Minimum Fax, che insomma sono molto contento di questa collaborazione. Certo, ci credo. Ti facciamo i complimenti anche noi. Abbiamo il tuo libro, l'abbiamo letto appassionatamente. E bene. Ho anche una tua dedica personale che non posso leggere in radio. sì. E appunto, porti avanti appunto la tua opera di scrittore e porti in giro i tuoi pezzi nei locali. Nelle serate, sì, anche quella, appunto, la mia attività da live, per dire, anche quella è nata per caso, perché quando uscì il primo libro mi chiamavano nelle librerie per fare le presentazioni e veniva molta gente che in realtà, più che del libro, erano interessati, che seguivano il blog e mi chiedevano: ma perché non leggi qualche monologo del tuo blog, eccetera, eccetera. Fino a che Mattia Coletti, che poi sarebbe stato il mio direttore di Pixar Thinking, mi chiamò a fare 5 minuti fuori programmazione al Lago Film Fest di Revine Lago, era luglio del 2013 ormai, e nel settembre dal checkmate di Genova mi disse: ma perché non fai proprio uno Sgargabonz live? Dico: in che modo? Niente, semplicemente fai un recital dei tuoi iscritti. E quindi quella lì fu, diciamo, la prima volta che c'è uno Sgargabonz live, e da lì ne ho fatti tanti, tutto declinato con grande grezzezza, la grezzezza che ti aspetti da un bracciante della Val di Chiana. Ma noi dobbiamo ringraziare assolutamente lui che ti ha spinto a iniziare a performare dal vivo, a ringraziare te ovviamente. Ma quindi te non nasci come performer, come comico da palcoscenico? Perché ma non lo sono tuttora. È una cosa che, cioè, a me tutto nasce dalla scrittura, per me. Poi, essendo che io, come dire, mi piace sempre il racconto orale, per dire, io oltretutto non sono neanche un gran lettore di libri, quindi non ho letto pochissimi nella vita, ma vero, ne avrò letti 20 al massimo di romanzi proprio nella mia vita, e tutta compresi i tuoi? Quasi, sì, però diciamo che se minimamente so scrivere, mi arriva un po' dall'oralità, dalla chiacchiera, dal condividere un racconto insieme ad amici al pub, come dire, romanzando una situazione vissuta, facendo la caricatura di qualcuno che ci sta sui coglioni, per dire. Ah, si impara anche da questo, così come si impara dai fumetti Bonelli, di cui invece sono un divoratore, per dire, o sono stato, insomma. Quindi, ecco, non è da poco che tu sia stato definito il miglior scrittore comico in Italia. Sì, su internazionale, dal buon Claudio Giunta, a cui debbo, come dire, l'80% della mia credibilità. Noi ci uniamo a questa... ci crediamo, oltre ad aver provato da noi riconosciamo questa cosa. Grazie mille. No, ma perché volevo chiederti una cosa che forse è più personale, interesse mio. Però appunto il fatto che non ti definisci uno stand-up comedian, io volevo chiederti se avevi dei modelli, dei comici che invece ti hanno ispirato o a cui, non so, guardi per migliorarti. Non sono uno che segue la scena comica né dei comici italiani, ma ancora meno di quelli esteri, per dire. Ma non per snobismo, assolutamente. Immagino che c'è un sacco di cose interessanti. Però, come dire, anche abitando, prima di tutto abitando in un paesino di 1200 abitanti, che la prima edicola è 8 km di distanza, sono anche fuori da tutte le scene italiane che un po' contano, per vedere i colleghi che magari sono anche bravi. Però ecco, no, se si parla di modelli comici, magari delle influenze ce le ho avute, per dire, però credo che ti faccio un solo nome, per me ci sono gli Squallor, diciamo, come modello comico per me proprio schietto. Cioè, per me è Alfredo Cerruti nelle sue narrazioni, spesso improvvisate su un canovaccio, per me è qualcosa di inarrivabile, insomma. Ecco, io, diciamo, quello ci ha avuto una influenza violenta nei miei confronti, tant'è che il terzo libro, che è Il problema purtroppo del precariato, scritto con il mio amico Gianluca Cincinelli, c'è proprio la dedica ad Alfredo Cerruti. Non male come riferimenti, direi. Però ti potrei dire anche che ti potrei, mi piace tantissimo il Renato Pozzetto degli anni 70, per dire. Così come Gene Gnocchi, così come il disegnatore Carlo Peroni, e ti ci metto anche Max Tortora, te ne posso far diversi. Allora qualcuno c'è. No, sì, però Alfredo Cerruti in prima istanza. Alfredo Cerruti. E senti, allora, quindi abbiamo saputo appunto che sei ospite del Festival di Letteratura Sociale, in particolare sabato sì. 18. E, sì. Non so se volevi farci fare due anticipazioni su cosa potremmo ascoltare. Il sabato 18 e poi questo Festival di Letteratura Sociale è un festival dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e non so se vuoi fare una battuta riguardo invece alla questione del Salone di Torino. Abbiamo saputo che tu hai rifiutato Facciato. Un ipotetico invito. Ma io quando ho visto appunto che si è dimesso Christian Raimo, mio buon amico, a me è presa una rabbia clamorosa. E quindi ho stracciato tutto. Cioè, però se ti guardi la foto, se la zoomi, non è l'invito al festival, che non ho mai ricevuto, che non mi ha chiamato né il festival né la minimum fax, mannaggia loro. Ma era un ordine di bustine, non per la cocaina, di bustine per le carte dei giochi da tavolo. Perché non ho passato i giochi da tavolo. No, non le match, no, i collezionabili non mi piacciono. No, io sono appassionato di giochi da tavolo proprio. E quindi ho più di 1400 giochi da tavolo, tra l'altro, una collezione importante. E niente, ho stracciato questa cosa lì, ma si vede anche, c'erano scritto bustine trasparenti, protettive, e in un frammento del foglio c'era scritto anche vieni, punto esclamativo, con lapis, come se quello fosse l'invito. E è uscita sta notizia, poi... questo articolo scritto da Capezzone, in cui mi inserisce nell'articolo come quello che per dare insomma una solidarietà a Raimo, che comunque gliel'avrei data volentieri, ha stracciato il libro, quindi ha stracciato questo invito, quindi fa parte di questa intelligenza di sinistra assolutamente deteriore, eccetera, eccetera. Il giorno dopo è uscito un articolo simile anche sul Secolo d'Italia, in cui il giornalista ha scritto: ah, questo Sgargabonzi, i cui capolavori ancora non ci sono noti, ha stracciato l'invito e ha messo oltretutto la foto nell'articolo. Ma cavolo, ma se la metti anche la foto nell'articolo, lo vedi che è tutta una burla. Le fonti zero. Però è stata una cosa buona, perché questo mi ha sdoganato come autore di sinistra, finalmente. Se no, dai tempi del fascistoide di Luttazzi, sì, è un po', capito? Per noi sarà un onore averti qua in quanto appunto autore di sinistra e... Ma infatti ti spiego perché vengo frainteso, ti spiego come la penso. Cioè, io ho degli ideali di estrema sinistra. Poi io è chiaro che poi voto per Salvini. È chiaro che io spero che tutto quello che faccia, che vuole Salvini, si realizzi. Perché a me mi piace quella tensione drammatica, cioè a me mi piace dove comunque combatte per qualcosa. Se tutto poi finisce per essere giusto, eccetera, eccetera, poi io anche creativamente mi sento un pochino più appannato. Cioè, invece, capito, cioè, un barcone annega e io ti scrivo un racconto spettacolare, capito? Quindi quello che è giusto, e per me giusto è che i porti siano aperti, è diverso da quello che è auspicabile. Auspicabile che i porti siano chiusissimi, perché questa atmosfera di ingiustizia è molto stimolante. Cioè, è questo, insomma. Chiarissimo. Vabbè, male male ti puoi mettere a fare recensioni di giochi da tavolo. sì, infatti. Beh, noi intanto ci uniamo alla solidarietà a Raimo, sicuramente. Sì. Raimo, al di là delle battute e degli scherzi, Raimo è spettacolare, per come ai tempi che io scrissi questo libro, c'è un racconto molto pesante sul libro dedicato a lui, Le avventure di Christian Raimo, in cui lui vi ha raccontato in una maniera molto... è un racconto molto crudele, in cui lui seduce e abbandona una ragazza disabile, non so se l'avete letto. Sì. Questo è un libro, è un racconto piuttosto, come dire, forte, e io gli chiesi ai tempi, dico, ma guarda, perché c'era un amico, ogni tanto viene a vedere e mi dico, guarda, ma ti va se io lo pubblico? Ero sicuro che mi dicesse di no. E lui dice, no, guarda, mi è piaciuto, pubblicalo. E io dico, ah, speriamo che non se ne penta. Poi quando mi ha presentato a Roma, ha detto anche, guarda, anzi no, sta cosa qua l'ha detta a Lolli, l'ha detta Alessandro Lolli in confidenza. E ha fatto anche, dice, ai tempi quando lessi il doc, gli dissi di sì, va bene. Poi oggi non so se gli direi di sì, perché trovarmelo su un libro minimo un fax stampato mi ha fatto tutto un altro effetto. Che, capito? Però è tutto spettacolare, insomma. Vabbè, grande anche Christian Raimo. Sì. Benissimo, allora che dire, noi ti aspettiamo a Gloria qua, sì. Ti aspettiamo anche per consacrarti come autore di sinistra, come autore antifascista, perché qua possiamo dargire patentini di antifascismo. Sì. E quindi... cioè, solo chi non mi conosce mi potrebbe dire fascistoide, diciamo così. Infatti ti vogliamo qua apposta per farti conoscere a più persone possibili, diffondere la tua arte. Sì. E bene, quindi bene. L'appuntamento è per sabato 18 maggio, sabato prossimo. Alle 21.30 con Alessandro Gori in arte lo Sgargabonzi. Forse anche col proiettore, mi hanno detto. Quindi forse sicuramente col proiettore. Possiamo mettercela. Ah, è una delle pochissime volte che a Firenze avrai un proiettore. Ho avuto un proiettore. La mucca esplosa e l'orgia di manichini in legno overbordati, hai scritto? Sì, waterbordati. Ok, sì. Perfetto, bene, allora bene. Ti aspettiamo. Grazie mille carissimi. Grazie e a te. Sabato. Ciao, a prestissimo. Ciao. Che gioia, amici, che gioia. Sono grande gioia. Io individualmente sono entusiasta di questa sorpresa di quest'anno al Festival di Letteratura. Sì, io penso che visto che Drago è molto appassionato di giochi da tavolo, penso che lo rapirò, non farò fare niente, lo porterò a giocare giochi da tavolo. Tra l'altro, se non sbaglio, lo Sgargabonzi credo sia proprio il nome di una carta di un gioco da tavolo. Ora io sono ignorante in materia, però l'ho letto da qualche parte. Forse è Cosmo, si chiama... Ah. Dai, e potevo chiedergli allora. Munchkin è un nome da Munchkin, che è quel gioco stupido in cui picchi l'altra gente, ti fai il personaggio. Ci fidiamo. Chiedere. Vabbè, andrei con un pezzaccio per stemperare. Sì, rivuoi il cavetto già preso, siamo rapidi. Mamma mia. Pezzaccio, via, inglesacci marci che parlano in inglesaccio marcio, via. Via. 1, 2, 3, 4. The Queensland harsh summer heat. I've been sweating buckets up and down my street. Cause there I spied the bloke, perched atop of his milk crate throne. He eyed me off as I approached, and then he said, I'm on smoke. Eccoci qua con una nuova bombatessa al microfono alla mia sinistra, che vado ad introdurvi perché abbiamo parlato adesso dell'evento che si terrà sabato sera durante il festival, lo spettacolo dello Sgargabonzi. Adesso andiamo a introdurre invece lo spettacolo che si terrà venerdì 17 alle 21:30. Infatti, porta malissimo, era venerdì 17. No, porta bene, dai, ora non cadiamo in che cliché, magari. Scusa, stiamo a presentare una cosa seria. Mi spengo il microfono. No, bravo. Venerdì 17, ore 21:30. C'è il collettivo Affluenti che cura la presentazione spettacolo di un libro di poesie edito da Omni Down nel 2014. Il libro è Contrabbando di Upupe, dell'autrice Eva Kruschel. e adesso andiamo a leggervi alcune poesie. Compro una salsiccia prima di partire dall'aeroporto in Polonia. Kielbaska, kielbasa, kabanos, kabanosik. Questa è la mia dote transcontinentale, il bimbo sacrificale della mia lingua. Divinità straniere ci volano sopra. Se Dio me la farà passare, mi mangerò la salsiccia come una santa, circonfusa di incenso, girando attorno a un tavolo con canti gregoriani. Variazioni Folkberg. Il nastro trasportatore sputa la mia valigia, con fare cospiratorio. Trasferisco la salsiccia dal bagaglio a mano alla valigia. Mi guardo attorno. Prego per la salsiccia mentre mi avvio alla dogana. Angelus, Aquilina, Angelus, salivazione. San Giorgio sta per conficcare la lancia in un drago sfrigolante. La valigia attraversa un salsiccia detector. Può una vecchia salsiccia rinascere giovane? La guardia mi prende da parte. La guardia solleva la mia salsiccia in controluce. Il suo trofeo babushka. È una salsiccia sottovuoto, dichiaro con orgoglio. Ho introdotto una nuova specie. Ma lei ha dichiarato niente carne, dice la guardia. La salsiccia sottovuoto non è carne. La salsiccia sottovuoto è salsiccia sottovuoto, dico mentre gli angeli custodi della mia salsiccia si divincolano sotto la luce investigativa. La guardia sbatte le palpebre quando ripeto con determinazione: la salsiccia sottovuoto è salsiccia sottovuoto. Sembra accecato. L'allitterazione ipnotica lo riporta alle acque della sua infanzia, dove le anguille saltellavano danze scozzesi. Oh, dolce salsiccia in ostaggio, santa degli arresti, prega per noi. Che la mia nuova specie abbia pietà di noi, che sfugga ai confini. Oh, uccello da forno, il cui canto migratorio è una salsiccia, salsiccia, salsiccia. Cara salsiccia dei martiri, patriarca sottovuoto, che la Vergine Libertà se la ingoi. Eva Kruszel è una poetessa polacca, da tempo residente negli Stati Uniti, che ha pubblicato le sue maggior parte delle sue opere in inglese, compresa appunto questa Contrabbando di Upupe del 2014, edita da Omni Down Press, e ora tradotta da Fluenti, appunto, che cureranno lo spettacolo, il reading che si terrà al Festival di Letteratura. Abbiamo un'altra, vuoi dire? Abbiamo un altro estratto, un'altra poesia da leggere? Sì. No. Sì. No, se vi è piaciuto, sì. Un sacco. Ah, salsiccia. Un sacco. Salsiccia. Vi aspettavate una poesia sulla salsiccia? No, io no, no, no. Ma vi è mai capitato a voi di... di poetare sulla salsiccia? Forse no. Di scrivere una poesia sulla salsiccia. No. No, a me tutti i giorni la mattina mi sveglio. No, di essere fermati con una salsiccia. No. A me è capitato. Di essere fermato alla salsiccia? Sì, a un concerto a Napoli. Con questa non puoi entrare? No, mi hanno controllato lo zaino e c'avevo... la salsiccia. Delle... c'avevo delle cose che volevo portare da giù a Firenze, quindi da giù a su, e avevo dietro con me una salsiccia e quindi ho dovuto tirare fuori la salsiccia. Infatti ho scelto di leggerla anche perché mi ha ricordato una cosa che mi è successa. Davvero. Avrei modo di condividere questa esperienza con l'autrice e sì, provare a vedere, a confrontare l'origine di questa ispirazione. Sì. E un'altra poesia che vorrei leggere è un po' lunga, però è praticamente una lista di oggetti che sono stati sequestrati ad un aeroporto. E lei ha fatto una poesia che si chiama Litania delle confische. Vai. Ok. Litania delle confische. Testa animale di ignota origine, difendici. Benny Babies, nutriteci. cinture, abbracciateci, nido d'uccello, radicaci, cadavere d'uccello, risparmiaci, bong, storditeci, farfalle della proibizione, svolazzate grazia su di noi, caramelle fatte da animali, addolcite le bestie contrabbandate in noi, kesher keks, portateci prosperità, castagne, arrostiteci, zampe di pollo, non saltate prima di schiudervi, frattaglie di pollo, dateci sostentamento, pillole di fertilità del cazzo, arrapateci, urina di vacca, curaci, sigari cubani, avvolgeteci di invisibilità, corna di daino, proteggeteci, sangue di daino, guariscici, pene di daino, curaci le incertezze, linguaccia di daino, falla ai nostri nemici, gusci d'uova, fateci camminare con attenzione, noci di ginkgo, sussurrate di oceani permiani, chat, ipnotizzaci, kinder sorpresa, coccolaci, foglie, frusciate in noi, accendino, acceca gli ufficiali della proibizione, mombin, intratteneteci, tortine lunari, assaggiateci, matriosche, avvolgeteci, oca, fai ciò che vuoi per cipolle, fate piangere gli occhi degli ufficiali, frutto di palma, canta della nostra vittoria, mango sott'aceto, ridacchia di noi, pastiglie di piccione, spacchettate il tubare per noi, semi, germinateci, anatra intera, qua qua quaci, 13 bottiglie di rum iperalcolico, saltellate in noi, corteccia di albero, stratificaci. Questo era tutte cose sequestrate? Sì, si può leggere l'elenco delle cose. Anche il... Ah, dice gli oggetti, là c'è una postilla. Anche il pen di dino. Pen di dino. Vorrei conoscere. Certo, noi siamo sempre. Vorrei essere lo sbirro che sequestra il pen di dino. Ci colpisce solo il pene. C'è una postilla che recita. Cioè, recita. Gli oggetti elencati provengono dal libro Contraband di Taryn Simon. Simon ha vissuto all'aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy dal 16 al 20 novembre 2009. Lì ha fotografato più di 1000 oggetti detenuti o confiscati ai passeggeri e presi dalla posta internazionale diretta degli Stati Uniti. Buono. Buon libro, deve essere divertente. È molto divertente. Molto divertente anche immaginarsi il lavoro di questi controllori che hanno le cose più assurde da... Cioè, che cavolo di indicazioni c'hanno? Se trovi cose di dino, non devono passare. Vabbè, se vuoi trovi... internazionali, tutta roba organica non puoi portarla, quindi prendono tutto e poi se la smistano fra di loro fare. E se la pigliano, si portano a casa un pene di dino. Anch'io sono organico. Anche i gusci d'uovo non sono male. Io vorrei sapere chi è che si porta in aereo, in tasca, non so. È qualcuno che vuol male agli allergici. Forse sì, Sarebbe divertente fare un vedere. Attacco. Portarsi in aereo una manciata di arachidi e farle volare nei condotti di aerazione. E tanto l'aria è quella. E scoprire quanti sono allergici, fare una statistica tipo... Vabbè. Buon test, sì, questo qua. Nel frattempo abbiamo il nostro regista che sta battendo negli infiniti problemi tecnici di oggi. Ma dai, infiniti. E abbiamo anche un nuovo ospite, che è Samir. Ciao, Samir. Samir, che c'hai da dire? Sì, lo sai benissimo che se non parli nei microfoni. Ok, Grande Lago, che... come? Un pezzaccio ci può mandare il nostro regista, dai. Dai, mandacelo. E mandacelo. E mandacelo. Dai. Sona! We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look up. was then I had to say, over the times we shared, it's all blackened out. My bat lightning heart wants to fly away. Or dunque, siamo qua in regia, siamo tanti, siamo belli, se lo dice Dolago, siamo vecchi, cominciamo a essere anche vecchi. Effettivamente, ma per queste cose sicuramente. Siamo un po' vecchi per queste cose, ma non per altre. Abbiamo da parlare di una cosa molto importante, fra le mille cose che sono successe questo fine settimana. In questi giorni c'è stato un corteo sabato da Piazza Puccini, un corteo contro la repressione. Che si è concluso, partito dal Piazza Pluso al Novoli, dove c'era la 4 giorni Unified. È un corteo preparato in modo creativo da tutti gli spazi sociali fiorentini attraverso l'Assemblea Resistenza. E bene, è andato bene, ha attraversato il quartiere di San Jacopino, Viale Corsica, Ponte di Mezzo, è finito poi al presso, non mi ricordo, di qualcosa. Buoni segnali perché era partecipato da tutte le realtà fiorentine, sono state fatte anche delle azioni pratiche molto utili a tutta la cittadinanza, noi compresi, noi in primis direi. Avrete seguito la diretta Wombat, e se non l'avrete seguita potrete seguire l'indiretta. Sì, è vero, il podcast quando lo caricherò, che ancora non l'ho fatto. E quindi mea culpa. Questa, sì, lo so, è stata appunto, ma dicevo, sono state giornate molto intense perché fra tutti gli spazi fiorentini è primavera e quindi tantissimi eventi, però negli spazi della polveriera sono successe cose brutte negli ultimi tempi, ma in particolare si sta parlando di circa 10 giorni fa, era un sabato, quando vi è stata una aggressione da parte di una serie di persone che presidiavano il chiostro con attività più o meno legali, comunque non da noi condivise. No, che rompevano il cazzo, diciamolo, stavano molestatori, il cazzo, sì. Gente che molestava, aggrediva, cacciava fuori i coltelli se qualcuno provava a dirgli qualcosa, era un continuo minacciare, additare la gente che passava, facevano sentire disagio chiunque passasse di fronte. Tante persone non si sentivano più sicure di attraversare il chiostro, di venire in polveriera. Era ormai da un po' di tempo che la situazione era abbastanza insostenibile e era necessario fare qualcosa. Noi abbiamo parlato con l'Assemblea della Polveriera, che ha provato numerose strade per cercare di sanare un po' questo disagio che si accumulava qui lì nel chiostro. E niente, appunto, è stata questa la famigerata goccia che ha fatto traboccare il vaso sabato scorso durante un'iniziativa durante la quale un compagno e una compagna sono stati aggrediti mentre cercavano di allontanare uno spacciatore che stava infastidendo la serata. Da questo fatto si è resa indispensabile una presa di posizione, un'azione immediata. E dunque è stato indetto un presidio permanente da parte dell'assemblea della polveriera. E non solo, se e dire, non solo perché il presidio se è iniziato e se ha perdurato, tuttora perdura, è stato grazie soprattutto all'apporto di tutti i compagni e le compagne di varie realtà fiorentine che hanno messo proprio il loro corpo e il loro tempo a disposizione, a difesa di uno spazio che vogliamo essere liberato da dinamiche di prevaricazione, di sessismo, di razzismo. Nel giro di pochissimi giorni è cambiato radicalmente la situazione nel chiostro di Santa Pollonia, molto tranquillo, frequentato, persone tra l'altro soddisfatte dello stato del chiostro. Ho sentito diversi complimenti rivolti ai ragazzi e alle ragazze della polveriera, e vi sono state organizzate diverse attività e continueranno a esservi organizzate attività, non per ultimo proprio giovedì con il festival, ma abbiamo avuto dalla Milonga allo skate park alla Roda di Capoeira, una serata, un'iniziativa sabato a cura di Yam che ha spostato da Via Baracca, ha spostato l'iniziativa in polveriera. Il venerdì è stato anch'esso un giorno ricco di eventi. Ma ricordiamo quindi anche l'apporto della palestra popolare San Pietrino dell'ex Emerson, che è venuta a allenarsi lì in polveriera. Possiamo ricordare il Ciace, che è ripreso nel cinema anticapitalista. Giusto, domenica, ieri. L'iniziativa sul General Intellect. Insomma, veramente tutti quanti dobbiamo ringraziare tutte le persone che hanno dato il loro apporto presidiando o spostando le loro attività lì in polveriera per appunto dare il supporto al presidio. E, tra l'altro vi si è tenuta anche giovedì un'assemblea pubblica per affrontare questo tema, non solo all'interno del chiostro di Santa Pollonia, ma anche con il quartiere che lo circonda. San Lorenzo, sappiamo, è un quartiere particolare che vive diverse difficoltà, sta cambiando, e quindi io non c'ero, te sai di io c'ero, andata? È andata molto bene, e era una cosa necessaria, anche perché questa cosa della lotta alla mafia dello spaccio risulta un tema scivoloso se non lo si spiega per bene, perché è lo stesso un cavallo di battaglia delle destre gioca sulla paura, la lotta allo spaccio intesa così in senso superficiale, e invece è stato importante poter specificare che che non è tanto lo spaccio, il consumo il problema. Il problema, quello immediato da affrontare in polveriera, erano le dinamiche che si generavano le dinamiche di sopraffazione, di sessismo, di violenza che si generavano in un ambiente appunto dove l'unica attività principale era lo spaccio, il profitto. Quindi l'emergenza da risolvere era quella dell'aria che tirava. Il problema più generale da risolvere non si risolve assolutamente con l'intervento poliziesco, con il proibizionismo, con la repressione proibizionista, che sono le uniche cose che hanno messo in campo le amministrazioni, creando un problema enorme, aggravando una situazione che è un problema sociale, un problema di disagio, di disuguaglianze. E invece con oltre che anche proprio di, cioè, voglio dire, la questione dell'uso degli stupefacenti è sicuramente un tema sul quale discutere, però si può dire che il proibizionismo fino adesso è servito bene a poco, se non a far radicare i mercati degli stupefacenti sul territorio, quindi fa solo gioco alle mafie. Per come la penso io, che ci vuole il contrario di un intervento delle forze dell'ordine, cioè ci vuole un intervento sulla legge, sulle norme. È quello che infatti è uscito anche dall'assemblea, e infatti si è puntato molto il dito contro le mancate responsabilità politiche delle amministrazioni e dei governi, che appunto rispondono con repressione, con proibizionismo, criminalizzando, quando invece l'unico che sono delle toppe, sono degli interventi soltanto di facciata, quando invece per risolvere questi problemi l'intervento deve essere a monte deve essere fatto con politiche sociali, con politiche sanitarie, politiche di inserimento nel mondo del lavoro, politiche di accoglienza, lotta contro le disuguaglianze e quant'altro. Solo così facendo si possono riassorbire quel disagio sociale che ha come effetto, ha come sfogo appunto l'uso di sostanze e la vendita, il mercato nero. E questo è stato appunto molto ben affrontato nell'assemblea. Non vi era una grande partecipazione di esterni del movimento? Più che altro vi erano appunto compagni e compagni che di queste cose già hanno affrontato in passato o che si sono trovati a affrontare anche più di recente. Perché appunto quando liberi uno spazio, quando ti inserisci all'interno di un tessuto sociale in quegli spazi lasciati abbandonati dalle amministrazioni, è chiaro che ti trovi a confrontarti con tutte quelle sacche di marginalità che naturalmente si creano in questi luoghi. E quindi il discorso è complesso, non va certamente sotto gamba. Fatto sta che i ragazzi della polveriera e tutti i compagni attivisti in città stanno concretamente affrontando questa situazione con tutti i limiti, ma con tutta l'entusiasmo e la legittimità di questo percorso, che nasce appunto da chi gli spazi li vive con la convinzione che appunto i luoghi sicuri li fanno le persone che li attraversano. Sì, questa è una convinzione che è palpabile all'interno degli spazi della polveriera. Così. E quello che, non lo so, contestualizzando Santa Pollonia all'interno del quartiere, mi vengo a dire che è da suggerire all'Assemblea della Polveriera di cercare di iniziare a farlo anche al di fuori del chiostro, visto che appunto il problema è all'incirca lo stesso. E forse può essere un buon modo per iniziare a interagire seriamente con chi sta vicino, con un quartiere. Credo sia importante, almeno questa è un'opinione personale. Avete abbandonato i microfoni, eh? Bene. Sì, così, mi lasciate in... È vero, l'ho rubato io al regista. No, siamo d'accordo, condividiamo. Avevi pachidermo? Cioè, poi magari quelli della polveriera possono dire anche: ma che cazzo dici questo? Cioè, no, liberissimi di dirlo, di farlo. Anzi, forza, pedate in culo. Ma... Dai, scatacchiamolo un pezzaccio. E poi sì. Poi abbiamo sì una sessione di cinema in polvere. A tema letteratura. dai, col cinema in polvere. Rebel, rebel. Salutiamo David Bowie che ci ascolta in seduta spiritica. Da sempre. E Iggy Pop che la rifaceva sempre. Ma questa voce dal profondo non c'era, spunta dal niente. Basta questa voce, passano le settimane e si abbassa sempre di più. Alla fine non ce l'avrò più. Ciao. Ciao a tutti. Che ci racconti? Ah, che vi racconto? Allora, per rilanciare il fantastico festival di letteratura sociale che partirà da giovedì negli spazi liberati della Polveriera, ho fatto così, giusto delle pillole, pillole di cinema in polvere, diverso appunto dal solito, perché oggi non c'è la programmazione cinematografica, abbiamo sempre, ma un piccolo excursus sul rapporto tra il cinema e la letteratura. Lungo rapporto. Così, sì, lunghissimo, ci sarebbe, ora ci bisognerebbe parlarne per giorni, sì, ovviamente. Ora è un po' in crisi, cioè a me, a parte dipende, fare film sorpresi da libri, però di è un po' cambiato scrivono... adesso, e infatti è interessante vedere anche come cambia il rapporto. Allora, diciamo che ci sono tantissimi scrittori molto noti che sono stati anche sceneggiatori, ma è interessante vedere che non sempre dei propri libri. Cioè è molto comune che gli scrittori siano sceneggiatori, abbiano lavorato come sceneggiatori, ma è buffo quasi mai dei loro stessi testi. Chiaramente il rapporto tra cinema e letteratura nasce già dalla vecchia Hollywood, dal sistema diciamo hollywoodiano classico, che era forse il periodo in cui di più si attingeva ai testi. Direi anche della nascita del cinema. Proprio. Chiaro, della nascita cinema del cinema, muto, esatto, cioè, film, ovvio. Sì, ora ho fatto lo skip direttamente all'Hollywood classica, ma ovviamente parte già. Il rapporto tra cinema e letteratura è inevitabilmente collegato, non lo sto a ripetere, perché il film si basa su una sceneggiatura è scritta da sceneggiatori che sono scrittori, a volte, molte volte sono romanzieri, a volte sono solo sceneggiatori. Nel sistema verticale, diciamo, della Hollywood classica, quasi sempre si prendeva testi anche molto famosi e poi c'era proprio il reparto sceneggiatura, era un reparto. Io non so se qualcuno di voi si ricorda, spero di sì, se no frustate, Il Viale del Tramonto, che non è un film tratto da un libro, ma in realtà parla proprio di questo, parla proprio del rapporto che gli sceneggiatori, no, William Holden fa uno scrittore che viene a contatto con questa grande diva in declino e lui fa parte proprio, è uno scrittore che però va a aiutare il reparto sceneggiatura ad Hollywood, si vede proprio lui che va nell'ufficetto e ce ne sono tanti altri di film così, però Il Viale del Tramonto è quello che lo spiega meglio questo rapporto tra cinema e letteratura. Ed ecco che grandissimi scrittori come Fitzgerald, per esempio, come Truman Capote, sono stati anche sceneggiatori. E appunto, come dicevo, non sempre però dei loro testi. La partecipazione di Scott Fitzgerald a Via col Vento è rimasta così celeberrima. Per esempio Truman Capote curò la sceneggiatura del grande Gatsby del 72, che era di Fitzgerald, quindi doppio collegamento. Ci sono dei registi che amano molto trarre dai libri. Kubrick è uno di questi, per esempio, quasi tutte le opere di Kubrick. Passava gli anni fra un film e l'altro a mangiare libri. E da qui anche grossi problemi con gli sceneggiatori e con gli scrittori, lo diremo tra un po'. I registi che spesso usano soliti autori, tra l'altro ci sono dei registi che sono proprio fissati. Hitchcock, per esempio, usava tantissimo Daphne du Maurier, che era una scrittrice, la scrittrice di Rebecca, degli uccelli, e una mia grande passione, per esempio, uno scrittore di racconti brevi geniale, si chiamava Jack Ritchie, che ha pubblicato più di 1000 racconti. Hitchcock, per esempio, traeva da lui tantissimi spunti per i suoi film e per i corti che davano in televisione, quelli Hitchcock Present, che è stata una... profilo... Esatto. Per esempio Ivory è uno scrittore, è un regista che ha usato tantissimo gli scrittori e in particolare quasi sempre Forster e Henry James. Abbiamo già detto Kubrick, Coppola per esempio fa sempre un po' un lavoro di trae degli spunti e poi, per esempio Apocalypse Now è Linea d'ombra di Conrad, tutti lo sanno. Il Padrino c'ha una gestazione molto strana perché era la trilogia di Mario Puzo e il film si chiama Mario Puzo Padrino, Godfather, quindi proprio addirittura nel titolo del Padrino c'è il nome dello scrittore, che è una cosa abbastanza rara che succeda. Quindi il riferimento è diretto. Visconti, Il Gattopardo, Senso, credo anche addirittura Rocco e i suoi fratelli, forse era un libro, non sono sicura. Morte a Venezia di Thomas Mann. Il pasticciaccio brutto tratto del film di Via Merulana, che è tratto da Gadda. Ecco, insomma, l'Italia ha anche ovviamente spesso nella sua produzione un grandissimo, per ritornare un secondo indietro, un grandissimo scrittore che si prestò ad Hollywood, Ray Bradbury, uno dei miei autori preferiti, il padre forse di quella che noi chiamiamo, non lo so, fantascienza, sicuramente uno dei padrini, diciamo. Esatto. E Moby Dick di Houston del 56 con il grandissimo Orson Welles e Gregory Peck, la sceneggiatura di Moby Dick, quindi non l'aveva scritto lui, era di Melville, ma Ray Bradbury fece la sceneggiatura di Moby Dick, di questa versione di Moby Dick. E addirittura dopo la fine del film lui scrisse un saggio che si chiamava Verdi Ombre e Balena Bianca, in cui parla dell'esperienza come sceneggiatore per Moby Dick. Ray Bradbury. Ecco, Nick Corby è uno scrittore che è stato saccheggiato tantissimo per lo scrittore di Alta Fedeltà, però paradossalmente tutte le sue sceneggiature per i film non sono, cioè Alta Fedeltà non è di Nick Corby la sceneggiatura, infatti non è un granché il film, non vorrei dire, non so se è quasi meglio, cioè non ho mai capito se gli scrittori che lavoravano al proprio testo lo rendevano migliore o se a volte lavorano, forse spesso un po se sì. Lavorano un po' in solitario, ci sono gli unici sceneggiatori, diciamo, del film. Esatto, perché non sempre uno scrittore è un buon sceneggiatore, sono due lavori diversi, ovviamente. Esatto. Ecco, i libri che hanno ispirato di più, diciamo, più versioni cinematografiche, sono dei libri, un po' perché sono classici, un po' perché a volte anche per caso fiate. O perché si prestano. No. Allora, innanzitutto Dracula, per esempio, di Bram Stoker, che ha il filone horror fondamentalmente. I Miserabili, ha tantissimi, Le Miserabili di Hugo, ha tantissime derivazioni cinematografiche e serie televisive, tutti gli Shakespeare, quasi tutte le opere di Shakespeare, quasi sempre, Frankenstein di Mary Shelley, che noi amiamo molto, e insomma Radio Wombat è appassionata, molti di Radio Wombat sono appassionati, Madame Bovary e tantissimo, quasi tutti i romanzi tratti, film tratti dai romanzi di Jane Austen, per esempio, quindi ci sono degli autori storici che si sono prestati più di altri, che gli autori hanno usato più di altri per i film. Ci sono invece degli scrittori di libri particolarmente saccheggiati e non sempre appunto sono però gli autori della sceneggiatura. Stephen King, per esempio, non sempre riesce a essere lo sceneggiatore dei propri lavori, delle proprie trasposizioni. Pensiamo a tutto il problema con Shining di Kubrick. Poi ne parleremo. Eroi, per esempio, tutti i libri tratti dalla saga della Rowling per Harry Potter, Martin con Game of Thrones. Un altro che viene spesso usato è Cormac McCarthy. Da Cormac McCarthy sono tratti da vari registi, hanno lavorato con i testi di McCarthy, non sempre sceneggiati da McCarthy. Molto bello, The Road, La Strada, Non è un paese per vecchi. Yeah. Stupendo, un po' passato in sordina, ma è un film incredibile. È un minore, considerato un film minore di Ridley Scott, tratto da McCarthy, e si chiama The Counselor, che è incredibile. A me piace tantissimo. Per esempio, Ridley Scott è un autore che usa tantissimo tantissimo i testi letterari. Prende spesso, pensiamo poi ovviamente a Blade Runner, e quindi ho detto tutto. Ma McCarthy è quello del cinema, la sceneria di Angela? No, mi sbaglio. Non sono sicuro Le Ceneri di Angela sia di McCarthy. Può darsi. Il testo. Cormac McCarthy. No. The Road. Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi. Il più super famoso. Non è lui. Scrittore. Il cinema proprio. Cinema. Guarda, invece c'ha gusto. Solo che però c'è una cosa. Io non mi ricordo i nomi degli attori. Cioè, una delle cose è proprio. Perché quella è una cosa da malattia. No, già ci diceva, aspetta, George Clooney. No, niente. Cioè, per me non connetto i volti con quella ginnastica. È solo ginnastica. Più lo non fai. È vero, però li guardo i film. Cioè, ne ho visti anche con George Clooney. Eppure, cioè, comunque le difficoltà ci sono. No, perché ti dico uno dei pochi che mi ricordo. Cioè, ma ci ho messo per ricordarmi. Ma davvero ci ho messo tanto. Va bene, e George Clooney sia. Ti vogliamo bene lo stesso. Va bene, ma vorrei dire. Cioè. Scrittori che hanno odiato, per esempio, le versioni dei cinematografiche dei loro lavori, guarda caso, tutti e due legati a Kubrick. Uno è appunto Stephen King con Shining. Lui odiò profondamente la versione di Shining, che è un bellissimo film, però effettivamente se si legge il testo di King è parecchio stravolto, parecchio cambiato, anche un po' nei suoi significati, un po'... ovviamente questo accade con gli autori più più autoriali, gli autori più autoriali, tremendo. Vabbè, i registi più, più autoriali, sì, sì, che hanno una visione molto particolare, e quindi poi anche se traggono un film, un'opera filmica dal romanzo, raramente poi riescono a rispettare quello che lo scrittore, no, voleva comunicare. Un altro libro da cui Kubrick trasse un bellissimo film, ma che ebbe grandissimi problemi, addirittura qui lavorò con lo sceneggiatore, è Lolita di Nabokov. Okay. C'è tutta una grandissima letteratura su questo, grandissimi pezzi giornalistici, e parlano del rapporto pazzesco tra Nabokov e Kubrick, perché a un certo punto Nabokov gli disse: vabbè, se proprio devi fare Lolita, allora te lo riscrivo io. Però poi Kubrick non andava bene, fu riscritto, ricambiato. Sì, anche perché non potevano indagare tutta la parte, diciamo, sessuale. Esatto, erotica, ovviamente, anche per motivi di censura. Beh, Arancia meccanica. Ci lavorano insieme, se non sbaglio. Sì, infatti è abbastanza... diciamo che Kubrick traeva sempre... praticamente sempre dai libri, però ovviamente da scrittori che già morti non era un problema. Doppio sogno di Schnitzer e Barry Lyndon di Thackeray, o Doppio sogno e Eyes Wide Shut, scusate. Sì. Cioè è chiaro, no? Quando l'autore è in vita è chiaro che è diverso, no? Perché ovviamente ci deve essere, ci c'è un rapporto, insieme, oppure si compra i diritti, a quel punto si fa un altro passaggio. Per andare velocissimi, film riusciti, diciamo, considerati piuttosto fedeli, se si può dire così, al romanzo, mi viene in mente Ritratto di signora, che è tratto dal romanzo di Harry James, Anna Karenina, anche l'ultima versione, piuttosto bella, L'orgoglio e il pregiudizio di Ang Lee, tratto da Jane Austen, con la sceneggiatura di Emma Thompson, che era anche attrice nel film, Il gatto pardo di Visconti, The Counselor, l'abbiamo già detto, Blade Runner, sì, ma anche Minority Report. Completamente diverso Blade sì, Runner. Sì, è vero. Il signor Gianelli. Manganelli. Il signor Gianelli. Il signor Gianelli. No, Harry, ragazzi, Potter? Sul signore Daniel non mi fate aprire l'argomento, Harry, perché sennò non si va, non ce ne andiamo più, dormiamo qua. Perché? No. Perché c'ho tutta una serie di. No, non lo so. Cioè, no, mi torna e non mi torna. Vabbè. No, mi torna il nome. È un problema. No, che ci sono cresciuto al Signore Lanelli, quindi quando Peter Jackson mi ha fatto il Signore Lanelli non mi è tornato tanto. Io sono cresciuto col Signore Lanelli di Peter Jackson. Mi dispiace. No, vabbè. Mi ha fatto innamorare del cinema, perché a vedere l'edizione special con i DVD e hanno filmato tutta la lavorazione dai costumi. No, va bene, su quello non metto. No, ma infatti il problema non era su quello. È un po' l'intenzione. Secondo me Jackson non è riuscito a cogliere. L'avesse fatto Guillermo del Toro, allora. Ah, beh, però lui non c'era voglia di lavorarci 11 anni. Perché vabbè. Lanelli, l'ha fatto lui. Ciao. Vabbè, poi fai un film su Insidio di Lanelli e non metti Tom Bombadil. Per me devi stare in Nuova Zelanda e chiuderti in casa. Comunque va bene. Film che col fantasy non è facile, non è mai tanto facile col fantasy, nel senso, coi libri sembra facile ma poi non lo è. I libri, i film tratti dal fantasy sembra, ma in realtà non è così. Grazie per questo canzone in sottofondo. Bella, che è di Drive, la colonna musica di Drive, che è del mio regista preferito. Ti voglio bene, grazie. È bello, bello, bello. Allora, film che invece si reputa appunto non essere all'altezza del libro, ma proprio nel suo, no, proprio per non aver colto il significato un po' profondo del libro. Ahimè, il mio libro preferito, L'età dell'innocenza di Edith Wharton, una versione di Scorsese, che è un grandissimo regista, a costumi pazzeschi, però purtroppo Scorsese riporta il libro un po' ai suoi tempi, cioè il libro è la storia di della società ottocentesca della New York che si stava formando, è un triangolo amoroso che però è tutta una metafora appunto della nuova società capitalista, né? E Scorsese la fa diventare la mafia nell'Ottocento, la fa diventare come un... È un po' fissato. Sì, è quello, purtroppo devo dire, uno dei miei registi preferiti, il mio libro preferito, però ahimè, un flop completo. Quando è così sulla carta, perfetto, c'è è sempre vero, del è vero. Marcio. Un altro che secondo me non sta all'altezza del libro, proprio perché ne tratta soltanto una piccolissima parte, è Le Confidential, che è un bel film, un noir, ma il libro è pazzesco, è veramente incredibile, tratta appunto della gentrification di Los Angeles negli anni 50, insomma tratta della violenza della polizia, cosa che nel film è molto superficiale, è molto trattata così. Colazione da Tiffany, e qui casca l'asino. Colazione da Tiffany è uno dei miei preferiti, però. Allora, Colazione da Tiffany, di Truman, un racconto lungo di Truman Capote, considerato uno dei film più belli di Black Edwards, è entrato nella storia, Audrey Hepburn. Se uno legge il romanzo, se legge il coso, è completamente, cioè il significato che è tutto male, tutto male, male perché male. Truman Capote si dannò per aver ceduto i diritti, per aver fatto, per aver non gli vogliono far fare lo sceneggiatore, perché Hollywood lo trasformò in un romanzo d'amore, no? In un romanzone d'amore, una storia d'amore, magari anche bella, che però non era, era un rapporto tra una donna e un uomo omosessuale, quindi un rapporto fraterno, biografico di Truman Capote. È passato alla storia con uno dei migliori film, tra l'altro Audrey Hepburn è entrata nella storia, no? Doveva essere, Truman Capote aveva scritto il racconto pensando a Marilyn Monroe, figurati che cacchio c'entra con Audrey Hepburn, niente. Quindi ecco, questo è un esempio di un film che è passato alla storia come un grandissimo film. In realtà il libro è innanzitutto migliore, ma non tanto per quello, ma proprio perché il film tradisce proprio quelli che sono invece i temi base del libro, no? Che vabbè, Truman Capote, uno dei più grandi scrittori del Novecento, e lui si mangiò le mani, infatti, proprio per non essere riuscito a fare lui la sceneggiatura e aver ceduto così. Bene, beh, ce ne sarebbe altri mille, veramente, però diventa lunga. Questo è un po', era un po' così, un excursus, una piccola parentesi. Sì. Grazie mille. Grazie a voi. Ci ha messo un sacco voglia di guardare film e andare al festival di letteratura sociale. Certo, tutti e due collegati, perché ragazzi, cioè, veramente, guardare i film non vuol dire leggere i libri, smettere di leggere i libri, anzi. Peraltro, in diretta mi è giunta la creazione del nostro buon Tuco, che oggi non è qui ma era a lavorare allo spot per il festival. È qui, non so, dammi un cavetto e te lo e sparacelo. Wow. Momento di problema tecnico da risolvere. Sì, vabbè, è chiaro. Il bello della diretta. Sì, io vi rimando a consultare il programma online, anche cartaceo, che sta girando già da un po', del Festival di Letteratura Sociale, perché è ricchissimo veramente. E in questo momento in particolare, come dicevamo prima, la Polveriera è uno spazio che ha bisogno, insomma, di essere quanto più frequentato, quanto più vissuto. Yep. Sentiamolo? Yes. Via. Il prigioniero desidera dire una parola. Festival! Cos'è il remix? Oddio, dal 16 al 19 maggio presso la Polveriera Spazio Comune, via Santa Reparata 12 Rosso, quarta edizione del Festival di Letteratura Sociale. Quattro giorni di dibattiti, presentazioni, spettacoli, concerti, esposizioni dedicati all'editoria indipendente e non solo. Il tutto libero e gratuito. Potrete sentire la diretta su wombat.onoblog.org o su 1359 Onde Medie. Per specifico sul programma andate su Facebook, sito su quarta edizione del Festival di Letteratura Sociale. Sempre solo Wombat. Buon Tuco. Festival! Anche se non ci sei. Poi c'è parte, sembrava tipo parte remix. Chiaro, con l'eco. Copia e incolla del pezzettino. Bravo. Molto bravo, molto bello. Ripassa mercato. Sì, perché forse non sarà detto che tutto il festival sarà trasmesso da noi. È chiaro. In esclusiva. La facciamo e ce la cantiamo, ce la cantiamo e ce la suoniamo, come sempre. E anzi, alcuni interventi, alcune piccole presentazioni saranno proprio in diretta Radio Wombat. Hanno uno spazio in diretta Radio Wombat. Oltre che esclusiva Wombat. Quindi oltre che la diretta di quello che avviene, anche proprio dei piccoli siparietti e così di approfondimento che vanno solo su Radio Wombat. Yeah. Va bene, noi ci risentiamo lunedì prossimo. No, ci risentiamo giovedì probabilmente. Ah, no, giusto, giovedì. Sì, vabbè, ciao, ci risentiamo in vacanza, con Fuoco alle Polveri lunedì ciao, prossimo. Da giovedì il festival, diretta dal festival, manderemo in diretta da tavoli, faremo presentazioni. Già detto tutto, vaffanculo. Saluto. Basta. Ciao. Bomba! Viva! Mais je n'en peux plus, je veux partir très très loin, je pleure et je redis, c'est la larme de trop. Very. Radio Bomba. This is Radio Bomba.